la versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino qui, la versione di Oscar, da un saluto in diretta dagli studi di Milano, 16:34, primi 20 secondi. Il tema di oggi ve lo dico subito in maniera che possiate telefonare, poi aggiungo invece due parole su altri due fatti del giorno e una proposta di cui inizia l'esame parlamentare la settimana prossima su un tema che però affrontiamo oggi perché domani è un giorno di festa. E allora il tema è quello di tornare a dare un giro di vite rispetto alla liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi. Negozi sono liberalizzati nel 2012, quindi i negozi sono liberi di restare aperti nei giorni festivi in Italia, e però queste aperture sollevano un mucchio di proteste. Domani, per esempio, 1° maggio, sono annunciate un mucchio proprio a tappeto, agitazione da parte dei sindacati, l'organizzazione sindacale del commercio, sia in Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria e così via. L'argomento è quello che è penalizzante per i lavoratori di esercizi commerciali l'apertura nei giorni festivi. Anche le organizzazioni del commercio, Confcommercio, Confesercenti, sono da sempre contrarie a questa liberalizzazione dei giorni festivi. Loro sostengono che in realtà l'apertura festiva è un enorme favore fatto alla grande distribuzione, agli ipermercati, che ovviamente sono aperti in grandissima percentuale nei giorni festivi. La Coop, per esempio, domani, il 1° maggio, dovrebbe stare chiusa, dicendo 1° maggio chiusi per scelta, almeno così dice il Corriere della Sera oggi. Però le grandi catene come Carrefour eccetera eccetera hanno il più dei loro esercizi aperti nei giorni festivi, e compreso quindi il 1° maggio domani. Voi come la pensate? La libertà di apertura degli esercizi commerciali, ciascuno quindi vedendo qual è la sua possibilità di margine rispetto alla retribuzione dei dipendenti nei giorni di festa e così via, non è un guadagno per tutti, per chi lavora, per consentendo quindi una maggiore facoltà, a maggior ragione in un paese in cui il calo dei consumi commerciali è da anni terribile, l'espressione più immediata, più evidente della crisi della domanda interna da rilanciare? Oppure ha ragione chi, il sindacato e l'organizzazione del commercio, dicono no, assolutamente no, mai e poi mai? Vediamo un po' come la pensate. Chiamate l'800 24 00 24, i messaggi li potete mandare, lo sapete, al 349 238 6666. Ora vi presento subito l'ospite. Intanto due parole sui fatti della giornata, perché noi siamo oggi in attesa di un Consiglio dei Ministri che era previsto per le 16, quindi in concomitanza con la nostra trasmissione, nel quale vengono dibattuti in Consiglio dei Ministri le linee generali, gli indirizzi che in questi giorni il Presidente del Consiglio e il Ministro Madia avrebbero messo a punto per la riforma della pubblica amministrazione. Ne parleremo nei prossimi giorni, quando naturalmente il Consiglio dei Ministri sarà finito e avremo capito che cosa davvero uscirà. Oggi però, da quello che si è capito, non esce un testo, perché si tratterebbe di preparare un disegno di legge, un decreto legge, di aprire però dei tavoli con le regioni, perché la riforma della pubblica amministrazione, che avrà molti comparti, lo sentirete più tardi, bisogna anche trattarla con le competenze periferiche che lo Stato non ha per riformare la pubblica amministrazione degli enti locali. Ci sono alcuni punti per me molto delicati, vedremo quali saranno gli indirizzi che escono più tardi dal Consiglio dei Ministri, perché alcuni quotidiani, stamattina per esempio il Messaggero, preannunciano per esempio prepensionamenti pubblici applicabili a una platea molto vasta, fino a 200.000 dipendenti pubblici. Io sono senza parole e preferisco non credere a queste ipotesi, perché non riuscirei a capire, dopo tante parole sulla spending review, come poi ipotizziamo contributi figurativi a spese dell'INPS, cioè pagati da noi contribuenti, per mandare in pensionamento prima dipendenti pubblici. È un onere in più, e non vedo come questo possa essere fatto per dipendenti pubblici, visto che non viene fatto per i dipendenti privati, tranne gli esodati di cui ci siamo occupati più volte, e giustamente nel loro caso, visto che si sono trovati senza rapporto di lavoro e non più con l'età per andare in pensione per la riforma Fornero. Ma qui stiamo parlando di accompagnare la pensione a spese del contribuente migliaia e migliaia di dipendenti pubblici con la scusa della staffetta generazionale. Io sono molto in dubbio, spero che queste voci siano infondate, ma ne parleremo quando appunto avremo i testi e le parole. Il secondo fatto del giorno, prima di andare al tema che vi ho preannunciato, è una cosa che è avvenuta pochi minuti fa, pochi quarti d'ora fa, a dire la verità, e che mi lascia senza parole. Qui si parliamo invece di fisco. Era attesa per oggi la sentenza della Corte d'Appello di Milano sul caso Dolce & Gabbana. Ce ne siamo occupati più volte, e ce ne occupammo anche quando ci fu la requisitoria dell'accusa, cioè del procuratore generale di Milano Santamaria, che chiese l'assoluzione piena per Dolce e Gabbana, condannati in primo grado a 1 anno e 8 mesi di detenzione, di reclusione per evasione fiscale. La questione era omessa dichiarazione rispetto al fatto che i marchi di Dolce e Gabbana erano stati collocati in una società estera, tutto dichiarato, ma in primo grado l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto e ottenuto la condanna dicendo che era elusivo del fisco. Invece l'accusa in appello ha chiesto l'assoluzione piena con argomentazioni che mi hanno trovato totalmente convinto, malgrado la richiesta dell'accusa di piena assoluzione, la Corte d'Appello ha condannato di nuovo alla reclusione Dolce e Gabbana, non per 1 anno e 8 mesi, ma per 1 anno e 6 mesi. Io rimango senza parole se in un processo penale anche l'accusa chiede il pieno proscioglimento e addirittura con una giustificazione articolata del comportamento tenuto dall'azienda di Dolce e Gabbana, e il giudice, giustamente, nella sua indipendenza, decide di confermare la condanna. Il mio unico commento è: viva l'autonomia del giudice. Io continuo a pensare che viviamo in pieno giustizialismo fiscale. Questa è la mia opinione, ne parleremo poi quando vedremo il dispositivo della sentenza e visti anche i giornali di domani. Ma andiamo al punto di oggi, perché vi ho detto, su questa questione della ridisciplina della liberalizzazione degli esercizi commerciali inizia un esame parlamentare di una proposta di legge, e abbiamo qui con noi il relatore della proposta di legge, che è un deputato del PD, è un testo unico, quindi che ingloba proposte sullo stesso tema, relative appunto all'apertura del commercio nei giorni festivi. E l'onorevole Angelo Senaldi, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi, buonasera ai radioascoltatori. Ci può spiegare le linee generali di questo testo e quali convergenze intanto registra, visto che è un testo unico, quindi ha raccolto proposte diverse? Sì, innanzitutto devo dire che, una piccola premessa, il testo è proprio un tentativo di combinare una serie di proposte di legge, compresa una proposta di legge di iniziativa popolare, quindi che ha raccolto le firme dei cittadini ed è stata promossa da Confesercenti della Conferenza Episcopale Italiana, e il testo finale è il tentativo di compendiare un po' queste richieste, che vanno da una totale chiusura domenicale, oppure da una chiusura domenicale per l'80% alla totale apertura della legge Monti. Quindi il tentativo è stato quello di mettere insieme queste due posizioni assolutamente distanti. La proposta che oggi è arrivata al Comitato Ristretto, che io mi sono sentito di portare al Comitato Ristretto, prevede la reintroduzione delle chiusure obbligatorie per le giornate festive, quindi per 12 giorni festivi, così come individuate dalla legge, a partire dal 1 gennaio a finire al 26 dicembre. Questa è il primo tassello della proposta. La proposta poi si compone anche di un secondo tassello, che credo importante, che riguarda invece la necessità di individuare fondi a sostegno dei piccoli esercizi, degli esercizi di vicinato, che sono quelli che stanno soffrendo maggiormente la crisi. Quello che si chiama il commercio di prossimità, e che sparisce, sì, esatto, Sempre di più nei centri urbani, insomma. Sì, soprattutto nei centri urbani, e desertifica un po' le città, anche le città medio-piccole, insomma. Ora, lei personalmente, lo so che il relatore deve avere una posizione il più possibile equilibrata, questo lo capisco perfettamente, però innanzitutto non è meglio, da una parte, lasciare il più possibile la disciplina vicina agli esercizi commerciali, il che intendo dire i comuni, punto numero uno, posto che sia utile e ravvisato opportuno il fatto di dare un giro di vite, secondo lei? Dunque, io ho fatto questa proposta di attuazione di un meccanismo che prevede il coinvolgimento dei comuni rispetto alle 12 festività, sapendo che alcune zone del nostro paese non possono restare chiusi in certi momenti, penso ai comuni turistici, montani, marini, penso ad alcune città d'arte. La proposta prevede che i comuni possano intervenire spostando 6 di queste 12 festività a giorni differenti, quindi prevedendo un meccanismo di deroga temporale della chiusura, proprio per ridare anche una posizione di forza nella gestione di queste chiusure da parte dei comuni, che sono effettivamente quelli più vicini ai cittadini, che riescono anche a capire quali sono le occasioni migliori per tenere chiuse e tenere aperte. È chiaro che le 12 festività sono un numero, per qualcuno sono un numero limitato, per altri sono un passo indietro, io questo lo devo ammettere, perché la composizione non è stata semplice ed è tuttora in corso. Allora, io intanto le leggo alcuni dei tantissimi messaggi che iniziano ad arrivare dai nostri ascoltatori, ma lei lo sa, però voglio dire, dobbiamo, siccome siamo in trasmissione, rappresentiamo un ventaglio di opinioni, perché in effetti sono improntate alle opinioni più diverse. Per esempio, c'è chi manda un messaggio che dice: sarà banale, ma se non ho euro il 30 aprile non li ho neanche il 1 maggio. Quindi Luca, che si firma, dice: a questo punto non è il giorno di apertura più nei festivi quello che aiuta davvero a far ripartire i consumi. Altri sostengono: no, va bene liberalizzare l'apertura degli orari, però alcune limitate eccezioni sono sensate. Il 1 maggio al lavoro, per esempio, è assurdo come il giorno di Natale. Bisogna stare attenti a non eccedere, e questa è un'altra opinione, quindi più vicina, per così dire, alla lista limitata delle festività in cui c'è praticamente il vincolo di chiusura, si torna a un vincolo di chiusura. Altri invece dicono: no, noi in realtà la piena liberalizzazione ha consentito anche a chi è molto impegnato come me di poter finalmente immaginare di poter fare provvista quando altrimenti con le chiusure festive mi era impedito. E di questo tipo di messaggi ce ne sono parecchi, siamo a forse la maggioranza, però io non voglio ripeterli come a dare l'idea che la penso più così che altro. È molto forte anche la quantità di messaggi che dicono: se i consumi calano perché non ci sono i soldi, in questo caso ha anche senso però avere una disciplina più limitata. Io non sono d'accordo su questa relazione, però c'è chi la propone tra i messaggi che ci sono arrivati. Diversamente altri immaginano invece che ci deve essere una disciplina diversa a seconda del tipo di giro d'affari o di grandezza dell'esercizio commerciale. Allora, adesso su tutti questi tipi di spunti noi ci lasciamo per soli 60 secondi perché c'è l'informazione stradale, e poi torniamo a chiedere all'onorevole Angelo Senaldi, che è il relatore della proposta di legge che inizia l'esame, questo testo unico sull'apertura del commercio nei giorni festivi, tornando a disciplinarla, per sapere come la pensa e questo iter che immagina a che cosa ci porterà. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Le opinioni sono veramente le più diverse, perché c'è chi dice: ma se non vendono neanche i giorni di festa, che la gente lì è più libera di girare quando riescono a vendere. C'è altro, alcuni altri mi dicono: ma perché non ti prendi una compagna che deve lavorare tutti i giorni festivi, così vedi come ti salta il rapporto di coppia. Questo è un altro punto di vista che posso capire e rispettare. C'è chi dice: libertà non significa obbligo di restare aperti, quindi significa anche dover contare sul fatto che per i piccoli esercizi bisogna contare sul fatto che poi sono disponibili gli operatori commerciali dipendenti, senza i quali non si resta aperti, quindi un grado di volontarietà ma con la facoltà di restare aperti. Altri invece dicono: no, con questo sistema le catene di distribuzione stanno fagocitando non solo i piccoli esercizi commerciali ma anche i grossi marchi produttivi. Quindi le opinioni sono veramente diverse. Qualche telefonata e poi chiediamo l'opinione dell'onorevole Angelo Senaldi. Cominciamo con Emanuel, che ci chiama da Verona. Prego, Emanuel. Sì, buonasera signor Oscar, intanto grazie dell'invito. Prego. Nulla, il mio appunto è questo: io sono un imprenditore, ho diversi negozi, sia nei centri commerciali che nei centri storici, quindi diciamo un po' il polso della situazione ce l'ho. Qual è il problema? Che la torta è quella, e che noi teniamo aperto un giorno in più, un giorno in meno, i fatturati sono quelli. L'unica cosa che cambia è il costo gestionale del personale, dell'energia elettrica e quant'altro. Quindi non è perché io tengo aperto il giorno di festa, la domenica, piuttosto che il 1 maggio, cambia qualcosa. Le posso assicurare da imprenditore che non cambia assolutamente nulla. Quindi per lei sono aumentati solo i costi, non è aumentato il fatturato? Aumentano solamente i costi gestionali. Con il problema, tra l'altro, del personale, si esaurisce. Il personale dopo fa fatica anche a girarlo, quindi deve assumerne di più. Quindi cosa succede? Oltre ai costi gestionali, il personale esistente, se non vuol perdere lavoro, o si deve ridurre gli orari di lavoro, oppure devono lavorare a balù. Chiarissima. Ha ingrippato il sistema, e questo è il problema. Quindi lei è favorevole a tornare a vincolarla la faccenda. Benissimo. Assolutamente. Benissimo. Sentiamo già. Lo faccio già nel centro storico, quindi voglio dire, ne noto già i benefici, tutto lì. Ok, d'accordo. Sentiamo l'opinione di Giampaolo, che si chiama da Cremona. Prego, Giampaolo. Pronto, ci sono? Sì. Salve Giannino, buongiorno. Salve, senta, buongiorno. Sarò velocissimo e telegrafico. Sì. Innanzitutto l'aspetto culturale, se vogliamo, in senso esteso, è questo: siamo una società laica, per cui bisogna tenere conto della dimensione religiosa di tutti. Posso contemplare chiusure nel rispetto delle religioni, questo mi sembra che sia una cosa che si possa e si debba fare, però a grandi linee, viaggiando e avendo una visione piuttosto wide angle su tutto il mondo, io mi rendo conto che siamo un pochino indietro per quanto riguarda l'argomento in Italia. Io penso che si debba poter semplifico, non entro nella materia giuridica e senza entrare, lei dice... che è piuttosto complessa, però secondo me penso che in libertà nel terzo millennio, anche dal punto di vista di un liberismo economico non sfrenato, però uno debba essere libero di tenere aperto il proprio esercizio. Quindi lei dice come vuole. Libertà come quando vuole. Lei sa che per esempio in Germania c'è un ruolo di molto più limitato che in Italia, eh? In Germania io la penso come lei, però siccome devo tentare di contemperare tutti i punti di vista, per oggettivamente ci sono anche paesi avanzati che crescono più di noi con una disciplina degli orari più ristretta della nostra, ma anche nei giorni ordinari, perché lì chiude tutto alle 6. Ancora sentiamo Marco da Venezia. Prego Marco. Buongiorno a tutti. Sì. Io mi trovo d'accordo con quanto ha espresso prima l'imprenditore, in quanto sono marito di una dipendente di un grosso centro commerciale, e quello che risulta è che la domenica in famiglia non esiste più. Non esiste più per nessuno, perché i dipendenti sono costretti a lavorare sabato e domenica, festivi compresi. I turni si allungano, non c'è nuova assunzione, e allora a questo punto io pretendo che banche e poste siano aperte anche tutti gli altri giorni. È un mio diritto allora andare in banca la domenica o il sabato pomeriggio? Questo per esempio posso anche capirlo, questo lo capisco, dice perché sono gli esercizi commerciali e non tutto il resto. E poi naturalmente lei sottolinea c'è un impatto privato, oltre che di coppia, pesante. Perfetto, sentiamo Alessandro da Milano l'ultimo e poi torniamo all'onorevole Senaldi. Alessandro, prego, come la pensa? Buongiorno signor Oscar. Senta, io a parte il discorso sociale vorrei solo, sono un liberista anch'io, però il problema è che noi operatori dei centri commerciali non siamo liberi di decidere se aprire o chiudere, noi dobbiamo per forza stare aperti, quindi per noi non è assolutamente una liberalizzazione, ma anzi è una perdita di libertà, perché ci viene tolta la possibilità di scegliere. Perfetto, il punto di vista quindi di chi sta nelle grandi catene di distribuzione. Allora, onorevole Senaldi, lei che dice di questa disparità? Sono tanti ovviamente gli interessi e i punti di vista toccati, però lei dice, mi conferma, immagino, l'idea che è meglio tornare a una disciplina un po' di chiusura o no? Sì, io vorrei dire innanzitutto al signor Giampaolo che è vero, in tanta parte del mondo non ci sono limitazioni, nell'Europa continentale, come già lei accennava, non solo la Germania ma anche in Francia, in Belgio, in Danimarca, in Austria ci sono delle limitazioni, in Spagna ci sono delle limitazioni agli orari d'apertura degli esercizi commerciali, quindi diciamo il nostro continente è più arretrato rispetto a noi sotto questo aspetto. Noi andiamo a toccare con questa proposta di legge esclusivamente le festività, ponendo un altro meccanismo che è quello di patti volontari all'interno di un comune, quindi patti sottoscritti da tutti gli attori coinvolti all'interno del comune che possano prevedere ulteriori chiusure. Noi quindi definiamo delle chiusure obbligatorie, poniamo una possibilità, proprio come si diceva, anche di intervento del territorio. I messaggi e le telefonate indicano davvero la complessità del problema. Io devo dire che ho sentito tanti dipendenti dei centri commerciali che hanno sicuramente problemi nella loro vita rispetto alle giornate festive, anche perché questo aumento dell'occupazione non è stato così rilevante come probabilmente nel momento della liberalizzazione totale si pensava, e perché siamo anche in concomitanza con una crisi. Le do solamente un dato: la disponibilità delle famiglie in termini di stipendi è diminuita di 50 miliardi negli ultimi due anni, i consumi sono diminuiti di 50 miliardi o poco più negli ultimi due anni, quindi c'è un'assoluta corrispondenza tra disponibilità e consumi, e questo è il motivo principale anche della sofferenza di tanti negozi di vicinato, più che forse il discorso delle aperture domenicali. Un capitolo diverso è un capitolo sul quale non siamo, dico francamente, riusciti a trovare soluzioni riguardo agli operatori dei centri commerciali, cioè delle gallerie commerciali, sì, che sono vincolati dal contratto a aprire insieme al centro commerciale e quindi ad aprire sempre. Magari sono negozi a conduzione familiare che devono sopportare un'apertura continuativa, non avendo la libertà di scegliere, ma questo sono contratti tra privati nei quali la legge non riesce a intervenire, non c'è un meccanismo legislativo che possiamo introdurre in questa norma che possa permettere di svincolare da un contratto tra privati. Così come, e qui poi mi taccio, così come ci sono degli aspetti di tipo contrattualistico dei lavoratori che sicuramente dovrebbero essere maggiormente analizzati e devono avere anche un'attenzione maggiore, però non possono essere compresi in una normativa di legge. Faccio allora, esempio la turnazione del lavoro domenicale, che è prevista dal contratto ma che non può essere certamente vincolato attraverso una legge. Allora, ci sono messaggi sempre di operatori, però che affrontano la questione anche da un altro punto di vista. Qui per esempio c'è Giovanni che dice: da tre generazioni commerciante, da 60 anni negoziante a Milano in centro, il problema è che qui tenere aperto anche domenicale il centro inizia a non servire a niente da un po', perché in città i clienti sono allontanati dal centro da una politica che favorisce in realtà i centri commerciali fuori dal centro, e quindi noi piccoli non possiamo rinunciare alla nostra vita per un lavoro il cui esito a quel punto è totalmente incerto. Questo conflitto, onorevole Sanardi, che si avverte nella situazione di rappresentanza del commercio rispetto alle grandi catene di distribuzione, non si può immaginare di risolverlo per questioni diverse da quelle della coazione legislativa? Io credo che questo sì, non possa essere una legge che determina anche la risoluzione di un conflitto che è presente nel nostro paese, che ha una struttura anche commerciale molto particolare rispetto ad altri. Noi abbiamo tantissimi negozi, più del 55% dei negozi a condizione familiare, dove c'è un solo dipendente, insomma, dove molto piccoli, e abbiamo invece negozi molto grandi in misura minore rispetto ad altre nazioni. Noi abbiamo una struttura del commercio che è un po' particolare, che quindi credo subisca maggiormente questi contraccolpi acuisca anche questi contrasti. Il problema della rivitalizzazione delle città e dei centri storici, dei tempi delle città, è un problema che esula un po' da questo discorso, certamente. Ma è un problema assolutamente reale, è un problema che si cerca anche di controbilanciare, cercando di inserire delle misure di sostegno, che lei ci ha detto nel testo saranno comprese. Senta, un ultimo flash: che tempi avrete nell'esame perché arrivi in aula? Allora, l'esame noi abbiamo previsto di chiudere il lavoro in commissione entro il prossimo mese, il mese di maggio, quindi per poi andare in aula dopo. Parte di maggio per poi andare in aula. Va bene, noi seguiremo questo provvedimento perché, come avrà capito, lo sa, interessa molto alla gente. Grazie, onorevole Sanardi, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani, primo maggio.